Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nello Utah, con Valeria Della Valle. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono al Salone del Libro di Torino, dove, se non qui, posso trovare molti nuovi compagni di viaggio. E oggi mi aspetta Valeria Della Valle, che dalla confusione della fiera torinese vuole portarmi nella placida natura dello Utah. Nome: Utah. Capitale: Salt Lake City. Confini: lo Utah è uno stato degli USA, situato nella regione occidentale delle Montagne Rocciose. Confina con l'Idaho e il Wyoming a nord, il Colorado a est, in un solo punto a sud-est con il Nuovo Messico, con l'Arizona a sud e con il Nevada ad ovest. Abitanti: circa 2.700.000. Clima: il clima è principalmente arido, soprattutto nella zona sudorientale. Nelle altre zone sono frequenti le nevicate durante il periodo invernale e la presenza di nebbia e foschia nelle valli. La primavera rappresenta la stagione più piovosa nel nord, mentre la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno lo sono per la parte meridionale. Religione: quasi il 60% della popolazione appartiene alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, comunemente nota come Chiesa Mormone. Il restante 40% è così suddiviso: protestanti 15%, cattolici 6%, altre religioni 1%, atei e agnostici 18%. Fuso orario: meno 6 ore rispetto al meridiano di Greenwich, meno 7 rispetto all'Italia. Il mio primo contatto con lo stato dello Utah è avvenuto alla fine degli anni 70. Ero andata nello Utah per un motivo particolare, per raggiungere il mio compagno, che è un matematico e che per qualche anno avrebbe lavorato all'Università di Salt Lake City, e quindi sono partita sapendo molto poco dello Utah, a malapena ne conoscevo il nome, e quindi ho fatto quello che fanno un po' tutti in questi casi: ho cercato sulla carta geografica dove era lo stato dello Utah, con che cosa confinava. Ho scoperto che era uno stato tutto interno, poi ho scoperto che si chiama Utah perché originariamente era abitato dagli indiani Ute, e che è circondato dallo stato del Colorado, dell'Arizona, del Nevada e in un piccolo punto anche dal Nuovo Messico. Ecco, con questi pochissimi elementi sono partita, sono arrivata e ho scoperto una terra, uno stato splendido, tanto splendido che successivamente da allora ci torniamo ogni anno, e quindi sono più di 30 anni che almeno una volta all'anno, sicuramente d'estate, qualche volta anche d'inverno, torniamo nello Utah. È diventata un po' per noi la seconda patria. Il rumore di fondo che tradisce la nostra presenza allo stand della radio durante il Salone del Libro, dove Valeria è venuta a trovarmi, sembra il giusto contrappasso alla tranquillità che pare si respiri in questo stato tutto interno dove una volta vivevano gli indiani Ute. Mi concentro sulla sua voce e sui suoi racconti, e tutto intorno è già silenzio, come se fossimo realmente partite per lo Utah. Molti si stupiscono, perché certamente non è New York, non è San Francisco, non è Boston, però ha altre caratteristiche. Beh, intanto è un luogo, una grande terra fatta di foreste, fiumi, montagne innevate, laghi, è desertico, la popolazione ha una densità molto bassa, è uno stato quindi caratterizzato non solo dalla bellezza della natura, ma dal silenzio. Tutte le volte che ci torno ho l'impressione che anche il cielo sia diverso. Il cielo dovrebbe essere uguale ovunque, e mi sembra che sia più grande, che le nuvole siano più grandi. My heart is in the mountains, while my body is on this train. My head is anywhere but in today. It's cloudy in the city, and they say it looks like rain. Got just one side long to hear the conductor say. Rumori intorno a noi, ma silenzio e calma nelle parole che mi stanno accompagnando nello Utah. Vicino a me Valeria Della Valle, che in questo stato ci è capitata la prima volta ormai 30 anni fa e ne ha fatto una seconda patria. Allora, questo Stato ha una storia un po' particolare rispetto agli altri che costituiscono gli Stati Uniti, perché originariamente, come dicevo, era abitato dai nativi americani, quindi dalle tribù degli Ute, ma nel Settecento è stato scoperto da due frati spagnoli, da due frati francescani, e poi solo nell'Ottocento è stato, ma a seconda dei punti di vista potremmo dire che è stato colonizzato oppure che è stato occupato, naturalmente a scapito degli indiani, da una popolazione, da un grande gruppo di persone che appartenevano tutti, questa è la caratteristica, alla stessa religione. Erano i mormoni che arrivavano dagli stati dell'est e arrivavano in un certo senso in fuga, perché da lì erano stati, proprio per motivi religiosi, erano stati respinti. I mormoni. Quanti film mi vengono subito in mente dove ho visto uomini con barbe salopette e donne col foulard in testa. Ma Valeria tornerà dopo su questo tema. Adesso ci tiene a raccontarmi com'è la bandiera del 44esimo Stato degli Stati Uniti. È anche abbastanza singolare osservare la bandiera di questo Stato, perché nello Stato, nella bandiera c'è naturalmente l'aquila americana e nel centro c'è un alveare, quindi l'alveare come simbolo della operosità degli abitanti, ma soprattutto dei coloni fondatori, e poi questo alveare è affiancato da dei fiorellini bianchi. Questi fiorellini bianchi sono una specie di mughetto che però per l'origine dello Stato ha una grande importanza, perché quando questi coloni nelle loro carovane viaggiavano e a volte non avevano letteralmente da mangiare, si sono cibati in certi momenti del bulbo di questo fiore, e quindi ecco che il fiore è diventato simbolicamente emblema di sopravvivenza. Altro emblema molto rispettato nello Utah è il gabbiano, perché negli anni successivi delle terre dello Utah furono invase dalle cavallette. Siccome i mormoni praticavano soprattutto l'agricoltura, ecco che le cavallette devastarono tutto quello che stavano producendo, e quindi erano veramente allo stremo delle forze. Ma a quel punto miracolosamente arrivarono i gabbiani, che distrussero le cavallette e salvarono le popolazioni dalla fame. Tant'è vero che il monumento al gabbiano che c'è nella capitale, che è Salt Lake City, poi lo ritroviamo ovunque, anche nei piccoli centri. A long-haired preacher's come out every night, try to tell you what's wrong and what's right, but when asked about something to eat, they will answer in voices so sweet, hey, baby. By and by, in that glorious land in the sky, work and pray, live on hay. Compagni di viaggio. Nello Utah, con Valeria Della Valle. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono a Torino al Salone del Libro insieme a Valeria Della Valle, nella stanza messa a nostra disposizione dallo stand della radio. Là fuori tra i libri, nessuno sa che noi siamo già arrivate nello Utah, tra i suoi silenzi, la sua natura e la sua storia. Valeria mi ha già fatto fare la conoscenza della popolazione che vive qui, per la maggior parte mormoni. E proprio su di loro i racconti sono tanti. Uno che mi fa sorridere è quello della loro diffidenza nei confronti dei visitatori. Valeria mi spiega che le è capitato in questi 30 anni di viaggi di trovarsi nei pressi di fattorie sperdute e di aver avvertito un po' di ostilità da parte loro. Questo forse perché, a detta sua, i mormoni hanno il timore che li si vada a spiare per controllare se praticano ancora la poligamia, ormai considerato un reato. Una cosa è certa, al di là del numero più o meno esiguo di mogli, i figli sono sempre una grande quantità. E quindi è un altro dato che posso apprendere, che camminando sia nelle città sia nelle zone agricole, ecco, si vedono coppie giovanissime seguite da bambinetti in numero inimmaginabile, cioè possono essere da un minimo di 4-5 in poi, e quindi anche 6-7-8 bambini in scala. L'altro dato divertente o curioso è quello dell'abbigliamento, che è sempre un abbigliamento un po' come lo vedevamo nei film western: le donne vestono con vestiti così d'altri tempi, un po' fuori moda per noi, anche se molto graziosi, tutti a fiorellini color pastello, e gli uomini indossano le classiche salopette, anche queste da western, come un po' abbiamo sempre visto nei film. Un'altra caratteristica di questa religione, prosegue Valeria Della Valle, è il fatto che il capo della chiesa può avere continuamente delle visioni e in base a queste visioni cambia le regole di convivenza. Per esempio, i mormoni non possono bere alcolici e questo divieto un tempo colpiva anche la Coca-Cola. Ecco, questo divieto è rimasto fino a non molto tempo fa, fino a quando probabilmente i rapporti economici sono mutati e soprattutto fino a quando il capo non ha avuto, guarda caso, una visione in proposito. Anche qui ci sono forse molti aneddoti che si possono raccontare. Nelle comunità più rigide da un punto di vista religioso, quindi nei piccoli centri, nei piccoli paesi, quelli che siamo un po' abituati a vedere nei film, quei paesini costituiti dal municipio, la pompa di benzina, la locanda e poco più, ecco, ci è capitato più di una volta di andare nella locanda, nel ristorante per mangiare qualcosa, e lì la bottiglia di vino che volevamo bere deve essere non solo nascosta e avvolta, ma questo avviene anche in molte altre parti degli Stati Uniti, ma tenuta sotto il tavolo, perché così non si dà scandalo. Parlo naturalmente dei luoghi più rigorosi. Nelle città ci sono ristoranti francesi oramai chicchissimi, eleganti, anche molto costosi. His high beam lights. Who'd have ever thought they'd build such a deadly Denver bend? To be so strong, to take so long as it would till the end. Mormoni, poligamia e divieti sugli alcolici, ma anche visioni che permettono a una bevanda con interessi economici forti nel paese di non essere più soggetta al divieto. Ma lo Utah è anche e soprattutto natura. Dicevo prima che la natura nello Utah è forse la cosa che colpisce di più, perché ci sono, e non vorrei ricordare i luoghi più famosi. Tutti più o meno, come turisti, chi è stato negli Stati Uniti è andato nel Grand Canyon, è andato a Bryce Canyon, è andato a Zion, sono luoghi famosissimi, però appunto oramai invasi da un gran numero di turisti. Ci sono luoghi un po' meno conosciuti che hanno storie particolari e forse anche un fascino particolare. Mi riferisco in particolare a una vastissima zona dello Utah che è quella del lago Powell, il Lake Powell, e qui c'è una curiosità. Questo lago un tempo non esisteva, è un lago artificiale che è stato costruito nel senso vero e proprio, hanno cominciato a costruirlo negli anni 60, tra il 1963 e il 64, perché c'era necessità di fare una grande diga per creare un grande bacino idrico. E a questo punto che cosa è successo? Beh, intanto per riempire questa sterminata zona ci sono di acqua, ci sono voluti 17 anni, quindi con una progressiva immissione di acqua. E quest'acqua dove è andata? È andata in territori che avevano una conformazione completamente diversa, sia dal punto di vista zoologico, sia dal punto di vista della fauna, della flora, perché erano zone costituite da foreste, da boschi, da piccoli fiumi, ed erano i classici luoghi pieni di cervi, orsi, serpenti a sonagli, eccetera, eccetera. E naturalmente allagando questa zona così vasta, tutto l'aspetto è cambiato. Un lago che entra a far parte di un nuovo paesaggio. Per una volta non sono le case, i palazzi, le strade e il traffico a mutare lo skyline di una città, ma un elemento naturale che va a sostituirsi a un altro altrettanto naturale. Ora, chi si reca oggi in questa, la diga, la regione chiamata Glen Canyon, e il lago con tutti i suoi fiordi, si chiama appunto Lake Powell, ecco, chi arriva oggi trova un posto che sembra incantato perché è un lago di colore blu intenso, che riflette quel cielo di cui parlavo prima, dal quale emergono rocce di un colore rosso infuocato durante il giorno, e naturalmente il lago poi è solcato da imbarcazioni, houseboat, eccetera eccetera, quindi qualcosa di marino addirittura. È talmente grande che in certi momenti si ha davvero l'impressione di essere al mare, e invece sotto ci sono ancora tutto quello che è stato coperto dall'acqua, comprese le case, i luoghi, i ponti. Non sono mancati ovviamente gli ambientalisti, mi spiega Valeria, che all'epoca fecero molte proteste per la costruzione del lago, alcune anche accese, e in particolare quelle di uno scrittore americano, Edward Abbey, il quale nel 75 pubblicò un libro di grande successo e che in italiano fu tradotto col titolo I Sabotatori. Per chi non ha visto il paesaggio precedente, è difficile schierarsi, prosegue la Della Valle, ma certamente questo è un luogo indimenticabile. E allora anche qui, ecco, si possono passare davvero giorni e giorni di lunghi viaggi senza incontrare, a noi è capitato, senza incontrare quasi un'automobile. E godere del silenzio, dei cieli, di quest'acqua blu pulitissima naturalmente, incontaminata addirittura, e passare dei giorni davvero indimenticabili. The water is wide. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nello Utah con Valeria Della Valle. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Lo Utah è natura, anzi, è quasi una religione della natura, come dice la mia accompagnatrice di oggi, Valeria Della Valle, che mi ha raggiunta al Salone del Libro di Torino per portarmi dalla confusione della fiera nella pace della terra dei nativi americani. Ecco, forse il dato che emerge da questa mia esperienza, il dato positivo, è che nello Utah, come anche in altri stati americani, si è sviluppata questa sorta di religione della natura, e quindi questo rispetto per quello che loro hanno, no? Noi cerchiamo, non sempre ci riusciamo, cerchiamo di difendere monumenti, musei, scavi. Ecco, loro cercano, e in questo caso direi che ci riescono, riescono a difendere dagli assalti del turismo, dell'abusivismo, riescono, devo dire davvero, parlo dello Utah, a difendere questa che è uno dei loro maggiori patrimoni. Patrimonio che in fondo ci riporta, insomma, tutte le volte che torno in questi luoghi mi vengono in mente da una parte i documentari di Disney basati proprio sulle bellezze naturali, ma mi vengono in mente in fondo anche i fumetti di Disney. Girando per questi luoghi dove gli incontri con gli animali per noi inconsueti, quelli che citavo prima, dai cervi agli opossum, alle puzzole, ai serpenti a sonagli, alle aquile, ecco, davvero mi è venuto in mente che in fondo le fonti di ispirazione dei fumetti o dei cartoni animati disneyani, tutti basati su personaggi che hanno all'origine, che partono da un animale rappresentato, no, gli orsi e gli orsetti, ma rappresentati in maniera simpatica, in fondo hanno la loro origine in questo tipo di cultura e in questo tipo di contatto con animali piccoli e grandi. E in mezzo a questi scenari da favola, come può non venire in mente, visto che siamo nella patria di Hollywood, di girarci dei film? Un altro luogo che mi fa piacere ricordare, molto più famoso, è la famosa Monument Valley. Insomma, quella Monument Valley che fa da sfondo a tutti i film che tutti abbiamo visto, i famosi film western di John Ford, da Ombre Rosse, forse il più famoso in assoluto, a Il massacro di Fort Apache. E anche qui c'è una storia simpatica da ricordare che ho scoperto tornando più volte in questo luogo incantato. E il luogo appunto è bellissimo, no? È sabbia, e da questa sabbia si alzano montagne di roccia rossa che al tramonto naturalmente sono particolarmente suggestive. In questo caso si tratta della terra dei Navajo. I Navajo in questa zona negli anni 20 vivevano molto poveramente e proprio lì a Monument Valley c'era un punto che era il punto di incontro proprio per le carovane, per le diligenze. Questo punto di incontro, poi c'era anche un piccolo emporio, uno spaccio e una locanda, era gestito da un americano che si chiamava Harry Golding con la moglie. Questo signore, prosegue Valeria, è proprio l'esempio singolare di un bel rapporto tra un americano non nativo e i nativi, cioè i Navajo. Golding, angosciato dalla povertà e dalla situazione in cui viveva questa tribù di indiani, ma soprattutto colpito dalla bellezza del luogo, non riusciva a capire perché tutti i primi film western che venivano prodotti dall'industria cinematografica americana degli anni 20 e 30 non fossero girati lì. Ma gli è venuta un'idea. Gonna make it home on time. I'll be on that train to Utah, where the 100 cars or more. I'll be on that train to Utah. I'll be running to her door. Siamo nella Monument Valley, dove sono stati girati numerosi film western, grazie anche alla lungimiranza di Harry Golding. Pur essendo un luogo formidabile dal punto di vista paesaggistico, i film, prima del suo intervento, erano girati altrove. Erano girati in realtà in un altro punto dello Utah che si chiama Kanab, che era considerata, veniva chiamata la piccola Hollywood dello Utah. E allora che cosa ha fatto Golding proprio per favorire i Navajo? Ha fatto molte fotografie dei luoghi ed è andato letteralmente a bussare alle porte dei produttori cinematografici, ma in particolare di quello che già allora era un regista famoso, e proprio John Ford. Gli ha fatto vedere queste fotografie e tanto è stato convincente e insistente che lo ha portato a Monument Valley. Ford è arrivato a Monument Valley, non poteva che innamorarsi del luogo, e da quel momento in poi Monument Valley è diventata lo sfondo per tutti i più celebri film western che abbiamo visto nell'infanzia e che qualche volta, oggi certamente molto di meno, vengono girati ancora oggi. Essere sul set naturale dei film western più famosi è un'emozione. E a proposito di film e di collegamenti con lo Utah, Valeria ha molte altre storie. Mi parla della Carovana dei Mormoni, un film del 1950 che racconta l'epopea dei mormoni e di questo loro passaggio avventuroso, faticoso, doloroso in luoghi dove non esistevano le strade. Peraltro, sono ancora visibili oggi i passaggi antichi, quelli che si dovevano addirittura scavare col piccone nella roccia per far passare le carovane. E poi arriva la chicca. Chi non ricorda Butch Cassidy, Paul Newman, Robert Redford e la musica irripetibile di Bacharach? Tutto girato nello Utah. E anche qui, a proposito di Robert Redford, mi viene in mente un'altra singolarità che sempre fa capo allo Utah. Nel 69 appunto Redford girò Butch Cassidy, che raccontava tra l'altro la storia di due famosi fuorilegge e rapinatori del vecchio West che erano specializzati nell'assalto ai treni. Beh, forse proprio coincide con quell'epoca l'innamoramento di Robert Redford, beh, intanto con una donna che poi ha sposato, che apparteneva a un'antica famiglia di tradizione mormone, ma l'innamoramento soprattutto con lo stato dello Utah, tanto da nello stesso anno, tanto da convincerlo a comprare un primo ettaro di terra nel Wasatch National Forest. Nella Wasatch National Forest, quindi proprio all'interno di queste foreste incontaminate che cercavo di descrivere, lo comprò per $500 e da allora cominciò a coltivare l'idea di fare un festival del cinema indipendente, e così è nato il famoso Sundance Film Festival, che però è anche qualcosa di più: non solo riesce a lanciare ogni anno film che poi sono quelli che arrivano in Europa e che hanno grande successo proprio perché è un po' un circuito diverso, alternativo, di ricerca, ma Redford ha sviluppato anche un altro progetto, quello di costruire intorno al festival una sorta di residenza per chi ama il cinema, per intellettuali o anche solo per visitatori, ma tutto questo rispettando scrupolosamente la natura. Quindi in questa resort che si chiama Sundance tutto è ecosostenibile, dalle vernici usate al legname che è stato recuperato dal grande lago salato, quindi proprio il lago della capitale di Salt Lake City. Quindi ecco che anche in questo caso in fondo torna sempre lo stesso discorso, no? che è quello che mi colpisce dello stato dello Utah, questo rispetto per la natura come valore primario. Ecco qual è il segno che può lasciare in un animo sensibile un luogo come questo. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nello Utah con Valeria Della Valle. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Valeria Della Valle mi sta scarozzando per lo stato dello Utah. Dopo tanta natura e storia, mi ha portata anche al Sundance Festival, ideato da Robert Redford, folgorato dalle bellezze di questo posto dopo le riprese di Butch Cassidy. quante suggestioni può dare un certo paesaggio e soprattutto quanta immaginazione e creatività può smuovere. E se si parla di smuovere, in mezzo a tante bellezze naturali, non possiamo dimenticare lo sport. Lo sport occupa un grande spazio per tutti coloro che hanno qui la loro residenza e è una cosa che mi ha sempre sorpresa, tenendo conto che io non pratico alcuno sport, però guardo con grande interesse a chi invece ne fa anche qui una sorta di religione, no? Tutti smettono di lavorare e quando c'è ancora la neve, teniamo conto che le montagne dello Utah, persino a Salt Lake City, quelle che circondano la capitale, sono coperte di neve ancora ad aprile, quindi questo consente di andare a sciare finito il lavoro per un periodo molto, molto lungo. E la neve dello Utah è una neve che dicono gli abitanti, ma in realtà è proprio così, mi hanno detto gli esperti, è la migliore neve che si trovi sulla terra addirittura, loro dicono è la greatest snow on earth, perché pare che le nuvole si formano nell'oceano Pacifico, poi vanno, si dirigono verso le montagne rocciose spinte dai venti del nord, oltrepassano il calore dei deserti della California e del Nevada e poi finalmente arrivano proprio sopra Salt Lake City e sono cariche di una neve che è una neve molto diversa dalla nostra, perché è una neve farinosa, leggera, e quindi chi ama sciare si immerge fino a metà del busto dentro questa massa leggera e prova un godimento particolare. La miglior neve sulla terra, pure questo è lo Utah. Beh, non a caso le Olimpiadi invernali del 2002 si sono svolte proprio a Salt Lake City. Ricordo, non avendo io mai sciato in vita mia, ma rispettando e apprezzando chi lo fa, ricordo in quel periodo invece ero in Italia e ricordo di aver passato notti e notti a seguire i giochi invernali e le gare di tutti gli sport invernali alla televisione, naturalmente con un fuso orario diverso. E lo racconto perché ricordo un momento particolare di quelle gare, quando fu cantato l'inno, parlo proprio dell'inno di Mameli, quindi per la squadra italiana, e a cantarlo lì a Salt Lake City c'era Elisa, la cantante, che lo cantò in versione, proprio anche per rispetto verso il luogo che li ospitava, cantò l'inno di Mameli in versione gospel. E non posso non raccontare che mi ero davvero commossa, mi sembrava anche questa unione di quello che è diventato un po' il mio luogo di elezione, la mia, quella che considero una seconda patria, ecco, sentire cantare l'inno di Mameli in questa versione, che tra l'altro è molto bella, mi colpì particolarmente. Nel 150esimo dell'Unità d'Italia, a maggior ragione, mi unisco alla commozione di Valeria. Quante altre sorprese mi riserverà ancora questo viaggio? Come evolverà? And have moth outside my kitchen door. She's bonkers for that bear bull, flying round in circles, bashing out in her exhaust, stalling out in the woods. She navigates fine by the moon, but get her around a light bulb and she's gone. Eccoci alla fine. Ma come previsto, c'è un nuovo aspetto dello Utah che vale la pena conoscere. Lo Utah, e in particolare la città di Salt Lake City, ha dei primati molto particolari, come mi racconta la mia compagna di viaggio, che ne cita solo tre. Il primo è che è stato lo Stato, e soprattutto la città, nella quale è stata sviluppata per la prima volta la ricerca sull'impianto del cuore artificiale. E nel secondo, ecco che torna un po' di orgoglio nazionale in terra straniera. L'altro episodio che voglio ricordare è, e anche questo mi riempie doppiamente di orgoglio, il fatto che nel 2007 il premio Nobel per la medicina sia stato attribuito a Luciano Capecchi. Luciano Capecchi è di nascita italiano, naturalizzato americano, e da moltissimi anni insegna, fa ricerca proprio nell'università di Salt Lake City, e le sue ricerche sull'utilizzazione delle cellule staminali embrionali e sul gene, sono ricerche che danno speranze a tutti, proprio per poter sconfiggere, speriamo un giorno, le malattie che ci fanno più paura. Il terzo caso che voglio citare riguarda la genetica. L'università sempre di Salt Lake City è un'università nella quale si sono sviluppati in maniera avanzatissima gli studi di genetica. Uno studioso americano che si chiama Mark Skolnick negli anni 90 individuò per primo nel mondo quello che si chiama il Breast Cancer 1, cioè il gene responsabile del cancro al seno, quindi responsabile perlomeno della metà dei casi ereditari. Ecco, naturalmente questo è un fatto davvero di grandissimo, prestigioso e di immensa importanza per la nostra salute, per la salute delle donne in particolare. Allora ecco che mettendo insieme tutti questi episodi, certamente il mio riferimento allo Utah è in fondo fatto di tutti questi episodi che ho appena citato, o anche del piacere di girare per queste vastissime zone dove c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Ogni anno da 30 anni troviamo nuovi luoghi. Ora siamo davvero alla fine del viaggio. I rumori che ci circondano non sono più sovrastati dal silenzio e dalla pace dello Utah, ma stanno piano piano riprendendo il loro significato. Siamo ritornati a Torino al Salone del Libro, non c'è dubbio. Saluto Valeria Della Valle e la ringrazio per avermi portata in una terra così magnifica. Prima di lasciarmi, però, vuole dare un consiglio a me e a tutti quelli che intendono spingersi nello Utah. A proposito degli indiani, vorrei aggiungere una cosa per chi magari sulla suggestione dell'ascolto decidesse di allungare il viaggio anche allo Utah. Il fatto che a volte gli indiani, che oggi sono molti si sono integrati, ma un gran numero continua a vivere nelle riserve, quindi in un certo senso emarginati dallo sviluppo normale dell'America. Ecco, vorrei dire che a volte l'impressione potrebbe essere, per chi arriva, quello di un certo atteggiamento ostile o addirittura diffidente da parte degli indiani, però in fondo questo è comprensibile se pensiamo a tutto quello che è avvenuto. Lo dico perché naturalmente se si visitano le riserve bisogna avere una serie di cautele, per esempio non amano essere fotografati, ci vuole un certo rispetto da tutti i punti di vista, proprio per non creare turbamento a quello che è un equilibrio che è stato raggiunto difficilmente e che quindi forse vale la pena di rispettare. Ora Valeria Della Valle è in libreria con Viva la grammatica, scritto con Giuseppe Patota e edito da Sperling & Kupfer. Well, life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy that me can't hack. Early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with the needs of country charm, thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny riddle. Thank God I'm a country boy.